Buongiorno a tutti da Antonio Pavolini e benvenuti al 31esimo numero di Conversational, la rubrica di Radio Popolare Roma dedicata alla rivoluzione dei social media. I ballottaggi delle ultime elezioni amministrative sono più o meno tutti d'accordo, hanno sconvolto la geografia politica del paese e aperto nuovi scenari tutti da esplorare. Ma c'è un'altra cosa su cui sembrano tutti d'accordo. L'allegra, ironica, ipercondivisa e virale campagna spontanea che sul web ha sostenuto dal basso la candidatura chiave, quella di Giuliano Pisapia, è stato solo un elemento di colore e non ha spostato un voto. Lo dicono i giornali, lo ha detto la televisione, lo si ripete persino su internet, nel timore di essere accusati di autoreferenzialità in un clima da terrore bianco giacobino. E quando tutti, ma proprio tutti, si nutrono di certezze granitiche, forse è il tempo di iniziare a insinuare qualche dubbio. Ne parliamo tra pochissimo. Questa città ha già deciso chi deve essere il sindaco. Qui il sindaco lo farà una signora che ha un marito petroliere che gli dà 20 milioni di euro. Chiunque può diventare sindaco con 20 milioni di euro. Oh, e ci mettono già un perdente, ci sanno già che vince lei. Quale dibattito, quale ago della bilancia, ha già vinto, perché la sinistra gli ha messo lì un signore di 60 anni, Pisapia, che non ce la fa, che non riesce, è una buona persona, ma lì ha già perso. Una brava persona, una persona di 60 anni ma ha già perso, questo diceva Beppe Grillo, che è stato forse la vittima più recente di un trend che ha caratterizzato un po' tutta questa campagna elettorale, con degli strascichi anche dopo i ballottaggi, cioè la tendenza di riprendere quello che era stato detto in passato da illustri personaggi e poi far vedere come tutto sia stato smentito dai fatti. Oggi, come avrete capito, parliamo ancora una volta di rapporto tra web e politica, di web e campagna elettorale, e lo facciamo in compagnia, per cominciare, di Antonio Soffi. Ciao Antonio. Ciao a tutti, ciao Antonio. Allora, Antonio Soffi, autore televisivo, anche il suo impegno più recente, se non sbaglio, è questa trasmissione che fa il sabato su Rai 3. No, dal lunedì al venerdì. Dal lunedì al venerdì. Il sabato è l'unico giorno che non c'entra nulla, si chiama Agorà. Agorà ogni mattina dalle 9 alle 11. Dalle 9 alle 11, vedi. Allora, Antonio, tu sei anche giornalista, consulente politico, sei anche un docente universitario, sociologo della comunicazione, antichissimo blogger dal 2003. Non dico esperto di social network e nuovi media, perché è una definizione che ha stufato. Dovremmo forse tutti quanti dare per scontato che almeno chi si affaccia davanti a questi microfoni qualcosa capisce di queste cose. Ma tu sei uno di quelli che sicuramente tante cose le ha viste in anticipo. Insomma, posso dirlo perché abbiamo una lontana, un'antica ormai frequentazione, una vecchia frequentazione anche di pionierismo del podcasting. Antonio, questa campagna elettorale. Abbiamo parlato spesso nelle ultime puntate di rapporto tra politica e web, però ne abbiamo parlato spesso in modo strutturato, cioè abbiamo detto come le campagne vengono organizzate dai candidati. Le vere cose nuove che si sono viste però in queste ultime settimane è lo spontaneo movimento dal basso, anche non finalizzato a spostare voti minimamente, però una sorta di goliardia che però in certi casi è addirittura rimediato, come si dice, salita sui giornali fino a far sorgere il sospetto che qualcosa possa aver smosso. Secondo te? Sì, è questo uno dei dati più interessanti, però bisogna anche dire che non è un dato del tutto legato a queste amministrative. Il fenomeno del politics busting, come si chiama, cioè la capacità che ha la rete di fare parodia dei messaggi politici, si chiama così perché c'è un fenomeno analogo sui messaggi pubblicitari, l'ad busting, no? Ecco, questo fenomeno di far vedere il re nudo, di additare l'errore che della comunicazione che viene dall'alto, di farne parodia e strame, è un fenomeno tipico del web, che sempre nel momento in cui gli si presentano dei messaggi unilaterali dall'alto, il potere che si manifesta in maniera dall'alto al basso, risponde con una pernacchia. Allora, qual è stato l'elemento interessante di questa campagna amministrativa? È che la parodia, l'atteggiamento parodistico del web, in questo caso invece ha anche fatto cortocircuito con i media tradizionali e con le campagne vere. Ecco, che prima tendevano un po' a sottovalutare quello che veniva detto in rete, e a questo punto chiamo subito in causa Luca Lagna. Ciao Luca. Buongiorno a tutti, buongiorno Antonio e Antonio. Luca, che ci... lo sapevo che ne avrebbe approfittato, che ci tiene spesso compagnia quando parliamo di queste cose, del ruolo delle persone. Abbiamo parlato con lui spesso di citizen journalism. Vorrei tornare con te su quello che diceva anche Antonio Sofi, alla mia sinistra. Devo sempre dire Sofi a questo punto per distinguere. Facciamo con i nick, web goal. Con lui è web goal, ok. E tu sei Ezekiel, sì, se non sbaglio. No, ricordiamolo, perché poi chi ti cerca su Twitter. Dunque, un paio d'anni fa io scrissi sul blog, anche quello che oggi è il blog della trasmissione, Conversational, un post che parlava della sfortuna, tutto sommato, di tutti questi personaggi, le cui uscite, anche le cui gaffe, vengono continuamente pubblicate su YouTube, remixate e riproposte, proprio perché questa fase politica così piena di episodi deprecabili o quantomeno oggetto di ironia, di satira, è una fase che rimarrà forse per la prima volta stampata per sempre nei server video, per esempio, di YouTube, e quindi chiunque tra 20, 30, 40 anni potrà raccontarla in tutto il suo, fatemi dire questa parola visto che c'è anche Antonio Sofi, in tutto il suo becerume. Allora... il post che avevo scritto si intitolava La sfortuna. Cioè, becerume, perché io sono un esperto. No, perché no? Perché a te piaceva molto questa parola, perché ne parlavo spesso in Pendo Deliri, quell'antichissimo podcast che risale al 2004. No. Berlusconi, secondo me, non si rende conto, lui che è l'inventore di uno formidabile apparato di comunicazione capace di cancellare il passato, che qui non si cancella più nulla e che quindi tutte le tracce che tu lasci sono... più sono urlate, più sono roboanti attraverso la grande potenza del mezzo che lui ha, e poi più è facile rilanciarle come un volano contro di lui. Nel caso della Moratti, raccontaci di quello che è successo, per esempio, con le Moratti quotes su Twitter, Luca. Ah, beh, le Moratti quotes, dunque, sono state scatenate, è un fenomeno che è stato scatenato da il confronto su Sky, no? tra Pisapia e la Moratti, Sky TG24, che promuove questi scontri diretti era registrato, in effetti non era in diretta, e alla fine di questo scontro la Moratti ha colto l'occasione per fare un'accusa nei confronti di Pisapia, un'accusa che era falsa, perché questa accusa parlava di una sua condanna per furto d'auto. In realtà era stato non soltanto amnistiato ma assolto. Pisapia non poté fare una controreplica per motivi di regole, eccetera. Questa cosa scatenò sulla rete una reazione, ma non soltanto da parte dei fan stretti di Pisapia. In realtà è una reazione che è stata incarnata in un meme, no? Certo. I famosi meme. Un tormentone. Il tormentone, quello che si chiamava così, no? nel mondo analogico. Invece poi su internet diventano meme veri e propri. Cioè, quando un messaggio può essere non soltanto diffuso in maniera virale, ma in cui è un messaggio nel quale qualcuno può metterci sempre qualcosa di nuovo, e quindi il messaggio riparte. Allora, i Moratti quotes in questo caso erano tutte le frasi che la Moratti poteva dire in maniera così fantasiosa contro Pisapia per accusarlo di qualcosa. Sono venute fuori cose di ogni tipo. E poi forse, Antonio, c'era anche dietro un voler segnalare che mentre la campagna di Pisapia in qualche modo raccontava che cosa lui avrebbe fatto per la città nel caso in cui fosse stato eletto, quella della Moratti tendeva sempre più a screditare l'avversario, e quindi paradossalmente non so quanto fosse calcolato tutto questo, ma il messaggio che arrivava a chi non fa parte di tutto questo circuito era: ma però effettivamente qui si parla sempre solo male di Pisapia, non si parla più di Milano, e quindi questo, secondo me, in qualche misura ha contribuito a svuotare i contenuti la campagna di Moratti. Sì, sono d'accordo, questa è stata, come si dice, un errore sbagliato da mille punti di vista diversi, cioè una mossa sbagliata da mille punti di vista, un grande errore della Moratti comunicativo e non solo. Un dato è quello che dici tu, cioè politicamente era un attacco ad personam che non aggiungeva niente alla campagna, e visto che la campagna politica era stata dettata da un Berlusconi contro i giudici comunisti, ricordiamo il manifesto di Lassini con via delle le BR dalla procura, insomma questo era il tono della campagna della Moratti, e questa accusa ingiustificata era un po' la ciliegina sulla torta negativa. Però ci sono altre due cose volevo dire su questo su questa gaffe comunicativa della Moratti. La cosa più interessante secondo me è non solo l'errore della Moratti, che ha fatto un trucco che tutti potevano capire, e non c'è niente di peggio che fare un trucco che tutti capiscono e vedono, cioè dare la stoccata all'ultimo secondo disponibile perché poi le regole non permettono di controbattere, ma anche la risposta straordinaria di Pisapia, che nel momento in cui poi il conduttore ha chiesto loro di darsi la mano, Pisapia non gliel'ha data, e questo è un gesto molto forte, tant'è vero che si può tollerare solo come un gioco, come uno scherzo bimbo che non so se si fa ancora, ma quando qualcuno ti tende la mano fagli il gesto dell'ok e non dargliela, perché in realtà quando qualcuno ti tende la mano tu dovresti dargliela, e Pisapia non gliel'ha data la mano, e questo secondo me ha scatenato anche non solo un senso forte dell'ingiustizia che poi è diventato le Moratti Quotes e altro, ma anche una sorta di orgoglio verso un Pisapia che non si abbassava, non era politically correct, non era il classico sconfitto di sinistra, ma reagiva in maniera forte. Bene, facciamo una piccola pausa con uno dei nostri inserti, ci risentiamo tra poco. Il sagrato è l'ultima frontiera per i supporter della Moratti, ma il volantinaggio organizzato stamane da Comunione e Liberazione davanti alla chiesa di Sant'Angelo non sembra riscuotere grande successo. Poi cominciamo, Le idee di Pisapia sono inconciliabili con una concezione cristiana della vita, si legge nel volantino che elenca i punti neri del candidato del centrosinistra, e per l'aborto, l'eutanasia, le stanze del buco. Ma queste cose non si possono dire perché sono false. Sono false. È vero che lui la pensa così. Ma allora, e allora non è la legge dello Stato. Che istituisce la stanza del buco. Ma questa è una falsa. Ma la legge dove è letto? Cose false, voi distribuite delle cose false. Nella Milano del cattolicesimo morbido e tollerante di Tettamanzi si gioca un altro tempo della sfida con CL, che peraltro deve scrollarsi di dosso l'accusa di aver sabotato la Moratti al primo turno, ma i toni e i temi scelti suscitano perplessità nel mondo cattolico, e ci si chiede chi abbia consigliato a Berlusconi di perdere i voti diocesani sposando l'intemerata leghista contro Zingaropoli. Insomma, una campagna che non convince. L'importante è leggere i programmi dei due. Non è che un giorno può cambiare le regole. Allora mettiamoci nella mano del primo che capita. Allora, questo era un video del TG3, se non sbaglio, che però fu visto quasi più da gente su internet che cominciò a rimpallarselo, perché io credo che poche cose come il modo, l'atmosfera che si respira nei confronti di chi fa volantinaggio nei gazebo davanti alle chiese prima del voto decisivo sia veramente indicativo di come il vento stia cambiando, in che direzione il vento stia cambiando, e questo è stato molto chiaro in quei giorni. Intanto io saluto, dovrebbe averci raggiunto al telefono Arianna Ciccone. Ciao Arianna. Ciao, ciao. Allora, Arianna Ciccone, che è fondatrice intanto del Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia, che si è tra l'altro concluso quest'anno da poco con grande successo, fondatrice anche dell'agenzia Il Filo d'Arianna, agenzia di comunicazione aziendale, ma soprattutto noi la conosciamo come grande attivista del web, promotrice per esempio tra le tante cose che ha organizzato il No Bavaglio Day, nonché anche questa... No, il No Bavaglio Day, perdonami, hai ragione, mi confondevo... A me mi viene una crisi di nervi, capito? Allora scusa Marianna, io lo confondevo in realtà con quella campagna, e qui non mi puoi smentire, che hai fatto su Facebook per ottenere la rettifica da Minzolini sulla questione Mills Berlusconi, no? Perché la RAI aveva... Quella... Io penso facendo prescrizione, non è assoluzione. Era prescrizione, non era assoluzione. Ha tirato fuori 200.000 firme. Poi però... In pochissimi giorni, grande, diciamo, battage su internet, la Rai se ne è bellamente fregata, però è comunque stata una cosa molto molto importante, di come, anche indipendentemente dalla vicinanza o meno di un appuntamento elettorale, su internet si riesce ad ottenere un notevole grado di mobilitazione. Confermi, Arianna? Assolutamente, guarda, sì, la Rai se ne è fregata, diciamo, anche un po' relativamente, nel senso che se ne sarà anche fregata ufficialmente. Pochi sanno che, per esempio, il segretario di Garimberti alla fine ci ha ricevuto e ha avuto un incontro con Valigia Blu. Detto questo, che voglio dire, nessun paese al mondo, se i cittadini protestano, fosse anche solo 10.000 o anche 10, una RAI, cioè un servizio pubblico, non si permette addirittura di non rispondere. Però secondo me da allora si spezzò qualcosa, cioè comunque l'attenzione su Mussolini e su quello che succedeva al TG1 è nata da lì, sicuramente è nata dalla rete e da quel tipo di mobilitazione. Sì, ma soprattutto dopo quell'episodio Mussolini è diventato a sua volta un tormentone di queste campagne ironiche che stiamo dicendo, che anche in questa trasmissione, no? Ci sono ormai dei personaggi che vengono continuamente monitorati dal pubblico, per esempio di YouTube, che crea dei brevi, diciamo, filmati di pochi minuti e trasformano questi diciamo portabandiera del berlusconismo trasversale in vere e proprie macchiette. Antonio, il giorno dopo delle elezioni il video più visto su Repubblica TV era Fede che commentava la sconfitta. Esatto. Ecco. Esatto. Ci ha messo tipo 20 minuti per dire abbiamo perso Milano. Sì, soprattutto poi per quanto riguarda Mussolini, il monitoraggio sulle notizie, quelle proprio tipo il corso di maggiordomi, quelle cose là, quindi diciamo che l'aspetto proprio che è il filo conduttore anche di quello che è successo in rete con Pisapia e Moratti è questa operazione di satira collettiva, per cui il personaggio viene smontato proprio nella sua dimensione ridicola. E questo penso che per loro è assolutamente irrecuperabile, cioè la Moratti e Mussolini non potranno recuperare mai più. Beh, però fa il paio anche, lasciatemi dire, con una gestione un po' dilettantesca del mezzo, perché poi voler essere comunque su Twitter per la Moratti senza saper gestire lo strumento si è rivelato un gravissimo problema. Vorrei che Luca qui accanto ci raccontasse, lui che è l'esperto, diciamo, di Twitter che abbiamo in studio, esattamente cosa è successo con questo account di Letizia Moratti, che aveva messo a disposizione, no? L'account l'aveva dato in gestione, se non sbaglio, a uno stagista per rispondere alle domande dell'elettorato. Doveva anche essere una cosa abbastanza seria. A un certo punto però un utente di un social network non molto noto, Friendfeed, ha rotto un po' il gioco. Che è successo? Dunque, nella prima parte, prima del primo turno, la gestione dell'account Twitter della Moratti era abbastanza piatto, nel senso che venivano fuori i post che erano presenti sul suo sito ufficiale, e questi post di solito erano abbastanza brevi, moltissimi erano basati su dei podcast audio, c'era questa Radio Letizia, sì, in cui lei parlava, cioè, ci regalava momenti di Letizia, così, e quindi questa cosa era unidirezionale, sostanzialmente sembrava una comunicazione analoga a quella che avviene normalmente. Sì, però a un certo, no, punto ha creato l'hashtag Mi Rispondi. Cioè, e quello era un passo, diciamo, forse più coraggioso da parte della Moratti. Questo è avvenuto dopo il primo turno. Ecco. Dopo il primo turno è cambiata la gestione, evidentemente è entrato in gioco qualcosa, qualcun altro, e è stata creata questa nuova, l'hanno chiamata campagna, insomma, in realtà era il sito, un nuovo dominio, mirispondi.it. Come Milano, sì, sì. Cercando di essere più interattivi. Ora, il discorso è, non sempre l'interattività coincide con semplicemente fare la grazia di rispondere alle persone che dall'altra parte dicono qualcosa. L'interattività è più legata probabilmente alla socialità, quindi all'integrarsi all'interno di una rete e quindi a condividere anche una serie di valori, di idee, di cose. Quindi spesso ci si trova di fronte a una condivisione di concetti abbastanza, no, bizzarri, con gente che assolutamente non la pensava in quel modo. Ed è arrivato il famoso caso Sucate, cioè c'è qualcuno che ha usato il mi rispondi, no, cioè c'è stato questo cliente, questo utente di Friendfeed, che però è intervenuto su Twitter, si chiama Luca, Luca con l'H finale, che ha chiesto in sostanza alla Moratti che cosa avrebbe fatto per il problema della moschea abusiva di Sucate di via Gian Domenico Puppa. Io vorrei dargli l'Oscar dei social network a Luca, possiamo istituirlo un Oscar? Ma la cosa fantastica è che c'è stata molto rapida, perché evidentemente c'è il mantra della rapidità, no? Senza consultare nulla, nessuno, lo stagista, la stagista che stava lì a rispondere, non certo chiaramente la Moratti, che sarà stata in giro a fare campagna elettorale, ha detto: beh sì, come tutte le moschee abusive dovranno essere gestite con le regole molto severe. A questo proposito del piano del PGT, si chiama Milano il piano generale del territorio, che corrisponde al nostro PGR, il piano generale regolatore. Una risposta seria ad una evidente boutade, e da lì il grande meme. Antonio, non hai detto come si chiamava la via? Via Gian Domenico Puppa. Certo. Insomma, c'erano abbastanza indizi per capire che fa abbastanza dire, per capire che era una boutade. Sì, c'erano un po' di indizi, ma non era una questione solo degli indizi, è una questione che non esiste un quartiere Sucate a Milano, quindi chiunque sia milanese questa cosa dovrebbe conoscerla. Però è indicativo come la rete alla fine svela gli inganni, i trucchi malfatti, perché alla fine la Moratti, che si è convertita ai social network solo dopo aver preso la batosta del primo turno, ha trovato poi proprio nei social network qualcuno gli diceva: guarda, questa conversione non ci crediamo. Perché è un dato anche interessante, perché vuol dire che la politica ha capito che attraverso internet si poteva fare una bella campagna elettorale, però ci è arrivata tardi e ci è arrivata male, e i social network queste cose non te le perdonano. Io la domanda più difficile a questo punto la voglio fare proprio ad Arianna, che non ha sentito la nostra introduzione, e le voglio chiedere se secondo te un caso come quello di Sucate, che poi ha ritrattino mediato, cioè è finito sui giornali, se ne è parlato sui giornali, sposta secondo te qualche voto, oppure dobbiamo vedere queste cose in un contesto più ampio, senza abbarbicarci sul tema, diciamo così, dei sondaggi, insomma, dell'andamento delle scelte elettorali? No, secondo me sposta, nel momento in cui questo tipo di è stato uno smontaggio del personaggio, quando viene ripreso dai media tradizionali sposta. Se rimane nella rete no, non credo, cioè magari rafforza e mobilita con più forza, ma che possa poi spostare qualcosa non credo, però se viene ripreso dai media tradizionali penso di sì. In questo caso ha funzionato anche il favoloso mondo di Pisapì, ha funzionato Moratti Quoz, secondo me sì, questo sì. Ecco, per dettaglio bisogna dire: il meraviglioso mondo di Pisapì è un divertentissimo video che è stato messo su YouTube proprio negli ultimi giorni prima dei ballottaggi, che ricostruiva in sostanza una Milano in cui Pisapia avesse vinto, e chiaramente era una Milano stalinista, una Milano nelle mani degli zingari, una Milano completamente in un mondo parallelo, che era proprio il mondo parallelo del racconto della Moratti. Io devo dirti la verità, Arianna, sono abbastanza d'accordo con la tua risposta, nel senso che, specialmente considerato che la Moratti si era presentata come il nuovo, come il moderno, l'efficiente, il tecnologico, tutte queste gaffe proprio là dove la capitale italiana della comunicazione dovrebbe esprimere eccellenza, per un elettore appena avveduto significava forse che questo confronto tra l'efficientismo morattiano e il vetero stalinismo di Pisapia non era veramente una pura fantasia. Luca? Ma intanto dico che no, il favoloso mondo di Pisapì era un po' una cosa spontanea, voglio dire, non c'è dietro una campagna, quindi spontaneamente moltissimi utenti hanno fatto cose di questo tipo, hanno partecipato ai meme, eccetera, eccetera. Riguardo al voto, all'importanza, io potrei anche essere d'accordo con voi, ma secondo me più che concentrarci sul discorso del voto, io mi concentrerei sul concetto identitario, cioè sull'identità che ha potuto rafforzare il fatto di potersi scambiare messaggi riguardanti la campagna di Pisapia o comunque il suo modo di essere, e quindi qualcosa che contrastasse con la Moratti. Questa cosa Prego. No, volevo dire, in qualche modo quel tipo poi di operazione di satira collettiva ha come se avesse anche dato un senso più di fiducia su quello che stava succedendo, cioè si partiva, chi votava il centrosinistra sempre con questo atteggiamento, tanto si perde, sì, sì, tanto verremo schiacciati, in quel momento lì qualcosa è cambiato, cioè se nell'aria si sentiva qualche possibilità, forse ce la facciamo, come se si fosse, come dici tu, questa cosa dell'identità ha ricompattato un fronte, sì. Questo forse. E di questo magari se ne è resa conto anche la stessa Moratti quando tentò questa mossa disperata che adesso ascoltiamo. Oggi verificheremo come si può cercare disperatamente di aggredire la rete, la blogosfera, i social network, ottenendo scarsi o nulli risultati, come per esempio la figuraccia rimediata su Twitter nel caso del comune dell'Interland milanese Succate, oppure come si può tentare di forzare truffaldinamente la pagina pubblica su Facebook per aumentare il proprio numero di mi piace. Gli ingredienti sono i seguenti: ci vuole un utente sprovveduto di Facebook, per esempio prendiamo il signor Claudio Messora Bis, potete vedere qua, questo è il suo account, e questo utente sprovveduto di Facebook non deve avere mai cliccato sul mi piace sulla pagina pubblica di Letizia Moratti, che è questa qui. Come potete vedere, il signor Claudio Messora Bis non ha ancora cliccato sul mi piace sulla pagina pubblica di Letizia Moratti, sindaco. Il terzo e ultimo ingrediente è una pagina internet fastidiosa, ancorché farlocca, che falsifica i dati di adesione alla pagina pubblica della Moratti mediante un codice di scripting sicuramente malizioso e poco onesto, anziché no. Apriamo uno di questi innumerevoli siti web che si possono incontrare sulla rete, che si chiama fatti-fantastici.info/video/calcio. Sono le 12.06 minuti del 25 maggio 2011. Come potete vedere, la pagina consta di un grosso video al centro, presumibilmente di calcio perché di tanto si interessano gli italiani, ma se fate attenzione, intorno alla finestra principale il mouse, la nostra frecciolina, si trasforma spesso e volentieri in una manina, e allora l'utente che volesse guardare il video potrebbe essere indotto a cliccare in un punto qualsiasi della pagina, specialmente nelle zone intorno al video, per lanciare il video. Ma ahimè, che cosa succede? Proviamo a cliccare esattamente in questo punto. Non succede niente, ma se torniamo alla pagina pubblica della Moratti e facciamo un bel F5. Come per magia siamo diventati fan della Moratti, ragazzi, che emozione, che emozione! Fossi che fossi stato un po' preso per il culo. E questo era Claudio Messora di bioblu.it, credo, che ha raccontato su YouTube questa mossa disperata della Moratti negli ultimi giorni di cercare di avere tanti fan comunque sulla pagina, dove avrebbe costruito le ultime, avrebbe sparato le ultime bombe, diciamo così. Quando il gioco si fa duro, i duri provano a cominciare a giocare. Ci ha provato la Moratti. La sensazione però che tutte queste mosse non fossero tanto nelle corde della Moratti, che tutto sommato ha sempre tenuto nella sua carriera politica un profilo abbastanza moderato, è stata un po' trasfigurata agli occhi degli elettori con questi atteggiamenti o anche queste scelte francamente discutibili. Arianna? Beh, questa mossa poi di falsificare i fan era veramente tremenda, cioè perde completamente screditata lei come... Ma lei non dovrebbe opporsi, cioè non dovrebbe avere, capire quantomeno che tutto il lavoro fatto per costruire la sciura per bene, col filo di perle, eccetera, con questo tipo di storie si dimostra... Ma lei ha accettato di sferrare quel colpo basso a Pisapia su Sky TG24? Certo, era lievemente imbarazzata mentre lo faceva, lei sapeva benissimo di mentire mentre stava dicendo quello che diceva su Pisapia, sull'auto rubata e sul pestaggio, eccetera. L'ha fatto, quindi in quel momento lei ha accettato di seguire una strada completamente folle, e sicuramente questa storia della moderata poi è crollata miseramente. Se avesse avuto la faccia tosta... Scusami Arianna, se avesse avuto... No, scusami, volevo concludere questo. Vorrei capire anche l'obiettivo di taroccare la pagina dei fan. Cioè, quando anche hai 20.000 fan farlocchi, finti, che cosa pensi di aver raggiunto? Perché questo anche chi l'ha consigliata malissimo anche sotto questo aspetto. Si sa benissimo che sul web quello che conta è la credibilità e la comunità che costruisce intorno a un'idea, a una persona, a un obiettivo. Non è possibile aumentare la pagina fan in quel modo e pensare di aver ottenuto qualcosa. Ma la cosa bella è che internet è un mondo di demistificatori straordinari, per cui la cosa rassicurante dal punto di vista del cittadino è che un trucco così malfatto come questo trova in 5 minuti qualcuno che, come abbiamo sentito, ma come anche altri, te lo smonta e te lo ributta indietro come un boomerang. La cosa che secondo me va detta anche politicamente è che la Moratti è stata buttata giù portata giù dalla campagna pensata e architettata da Berlusconi. Cioè, di fatto questa campagna di odio aggressiva contro i giudici all'attacco, lei l'ha seguita, mal consigliata, però l'ha seguita e l'ha portata a terra, tant'è vero che il giorno dopo del primo turno ha azzerato lo suo staff di consulenti. Bisogna avere, a mio parere, per fare una campagna come quella che alla fine la Moratti è stata costretta a fare, bisogna avere la stessa faccia tosta con cui, utilizzando la famosa ultima frase del faccia a faccia, Berlusconi anni fa promise, vi ricordate, l'ICI, no? Sì. Ecco, a me la mossa brutta della Moratti contro Pisapia al faccia a faccia di Sky TG24 ricordò nella scelta quel tipo di sfruttamento degli ultimi 20 secondi, ma nella modalità francamente si vedeva che era chiaramente imbarazzata anche lei. Si parlava di politici sì, dimmi, scusa Arianna. No, negli ultimi giorni ci ha provato a fare togliamo l'ICI con l'Ecopass che poi aveva messo lei, eccetera, ma ormai era la campagna della disperazione, non era più una campagna per vincere. Non è che è diventato troppo facile un po'? Noi ci lamentiamo spesso a questi microfoni del fatto che il lavoro delle persone serie che lavorano con i social media è gravemente danneggiato dai tanti consulenti che facilmente vanno dalle aziende a dire tanto tu ti faccio aprire un profilo su Facebook, te lo gestisco con 500 euro al mese, no? E le aziende ci stanno perché magari è un'idea che fa strada rapidamente dentro un'azienda in questo momento, cioè, perché è tutto di moda. Nel mondo della politica si rischia un po' la stessa deriva. Io penso che la cosa bella è che il lavoro della gente cialtrona è sconfessato dalla risposta della gente per bene. Questo su internet succede. Beh, naturalmente io per tanto tempo ho esibito lo stesso ottimismo di Antonio, però spesso... No, vabbè, ma questo è un caso che è successo, cioè sì, guarda, sì, guarda sì, gli errori della Moratti, sono stati... Io sono perfettamente d'accordo con te, però il tema che voglio lanciare con Luca è, tu Luca che frequenti, anche se con il giusto distacco, anche i circoli un po' autoreferenziali della rete, degli esperti, eccetera, se qualcuno prova a dire qualcosa del genere... c'è un clima come di generico cinismo per cui nulla mai cambierà, per cui noi ce la cantiamo e ce la suoniamo. La verità è che forse tutte queste cose di cui stiamo parlando non le hanno fatte i circoli autoreferenziali di internet, le hanno cominciato a fare la grande quantità di persone che usa ormai questi strumenti collettivamente. Sì, c'è un'aura di negatività su alcuni strumenti di social media, di internet sicuramente, però secondo me è uno scontro di scusa, mi è venuto di civiltà, vedi che roba, di mentalità. Sei autoreferenziale. È uno scontro di mentalità, grande scontro di mentalità a questo punto, tra comunque chi viene dal passato recente e chi ha un pochino la testa nel presente di alcuni paesi e probabilmente nel futuro dell'Italia. Oggi, se è vero che moltissima gente guarda la TV avendo accanto il computer o usando il palmare o usando l'iPhone o usando l'iPad, e quindi la stessa TV come mass media si, come dici te, rimedia, quindi si cambia insieme, e allo stesso tempo quello che noi facevamo con la TV e quindi con i mass media, quindi quello che è abituato a fare Berlusconi normalmente fino a poco tempo fa, probabilmente adesso è un pochino differente. Quindi io più che un errore vedo comunque una piccola miopia, ecco, insomma, non la capacità di vedere subito. Evidentemente una massa critica in grado di spostare già qualcosa in realtà esiste, perché ecco, è lì. Provando a volgere lo sguardo in avanti, massa critica, ci sono tanti utenti, anche amici miei di Facebook, che non avere un buon rapporto col computer e con internet, che da soli hanno cambiato la foto del profilo e ci hanno messo, diciamo così, il ricordo del fatto che il 12 e il 13 giugno si andrà a votare per i referendum. Io credo che siano molto più loro, gli insospettabili, diciamo la zia, la nonna, che fanno qualcosa del genere su Facebook, piuttosto che una presunta intelligenza di qualche social network un po' più snob come Friendfeed, magari, a cambiare le cose. Un'ultima battuta per tutti, perché siamo vicini alla chiusura. Sì, sono d'accordo, e questo lo si dice sempre, spesso, nella teoria di internet, che c'è bisogno di una massa critica per cambiare le cose. Secondo me ci stiamo arrivando in un modo poco autoreferenziale, come dicevi tu, ma in un modo che gioca anche con gli altri media, anche con i media tradizionali, che si rimbalza, che riprende, che mixa, insomma, ci stiamo arrivando in maniera, secondo me, più intelligente di quello che ci aspettavamo. Arianna. Sì, sono d'accordissimo con Antonio, soprattutto adesso sulla scia di quello che è successo con la campagna elettorale Pisapia Moratti, che sarà, rimarrà nella storia della comunicazione del web e della penso politica. Anch'io. Adesso con su questa scia qua quello che sta succedendo con il referendum sulla rete è la stessa cosa. Notavo oggi, se posso dirlo, rispetto ai, ai quesiti che c'è una forte mobilitazione assolutamente secondo me non ideologica, perché stranamente direi puntano tutti sull'acqua e sul nucleare, io non vedo tantissima mobilitazione sul legittimo impedimento, e questo secondo me è un aspetto molto positivo. Va bene, noi abbiamo deciso di tagliare Luca perché ha parlato anche troppo, però lo salutiamo, lo ringraziamo, così come ringrazio anche naturalmente Arianna Ciccone e Antonio grazie Sofi. Grazie. Ricordo ancora una volta, beh, ricordiamo intanto i vostri blog, il tuo Antonio. Io dal 2003 sul groppone, webgoal.it. Tu Arianna sei più presente direi con le tue azioni su Facebook, mi pare ormai, no? Sì, è con valigiablu.it. Ah, benissimo. E invece Luca Lagna è www.stilografico.com. Ma anche 140nn.com. Vabbè, 140nn.com è lo straordinario network di citizen journalism che l'individuo alla mia destra ha creato e che sta già scompaginando un po' le carte. E visto che siamo in tema di siti internet, vi ricordo il sito di Conversational, www.conversational.it, dove potete scaricare tutte le puntate andate in onda fino adesso. Io per il momento vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima settimana.